fiere ritorte, la mia fe risplenderà. La mia fe risplenderà, la mia fe risplenderà. Ritorte, la mia fe risplenderà. La mia fe risplenderà. Risplenderà la mia fe. Tra le ritorte, sì, tra i ceppi e le ritorte, la mia fe risplenderà. La mia fe risplenderà, risplenderà. Tra le ritorte, la mia fe risplenderà. La mia fe risplenderà, la mia fe risplenderà. Sì, tra i ceppi e le ritorte, la mia fe risplenderà. Ceppi e le ritorte, la mia fe risplenderà. La mia fe risplenderà. Risplenderà la mia fe. Tra le ritorte, sì, tra i ceppi e le ritorte, la mia fe risplenderà. La mia fe risplenderà, risplenderà. Tra le ritorte, la mia fe risplenderà.